una buona sera, o per meglio dire una buona notte, ma per chi ci ascolta tramite il blog anche un buongiorno, chissà, o un buon pomeriggio da parte di Max Macchia per 451 frammenti sonori, che ritorna anche per questo mercoledì, puntata di un'ora circa. Quindi insomma, magari stringerò un po' sulle parole, cosa che tra l'altro mi risulta anche piuttosto difficile per varie ragioni, perché insomma amo poi, come dire, trovare forme spesso orizzontali di allargare appunto il discorso, ma questa sera lo farò comunque, però l'intento, diciamo, è quello di provarci. Interior design per 451, ovvero che cos'è l'interior design? La maggior parte lo intendono come faccenda legata all'architettura degli interni, al design appunto degli interni, faccenda anche che sta andando piuttosto bene in questi anni, visto che c'è sempre più cura verso quello che sono gli interni appunto delle case, magari esterni tremendi, zone tremende, però insomma poi di fatto l'architettura interna e design di curatissimo, come insomma molte case ci sono appunto in giro. Comunque perlomeno ecco, l'interno, per quanto insomma poi fuori dalla corazza non abbia poi questo senso appunto architettonico, poi è generale, globale, se vogliamo anche così parziale, molto postmoderna come idea, quella dell'interior design, comunque perlomeno crea insomma una situazione interessante a livello interno. Poi bisogna vedere quanto interessante. Questa sera ovviamente l'interesse va più che altro al mondo delle musiche, alle musiche che tramite un disegno, tramite quelle che sono delle strategie, o semplicemente anche delle tattiche più a breve raggio, appunto creano dei disegni, potremmo dire, quindi design nel vero senso della parola, appunto anche nel termine italiano, disegni sonori, disegni che vanno verso più forme, se vogliamo, mentali, o comunque interiori di sperimentazione, di tentativi insomma di creare e anche ricreare, perché poi si tratta anche di ricreazione per alcune cose che questa sera metterò, e anche appunto creazioni invece che vanno sia a sviluppare quello che è un percorso dentro quelle che sono appunto sia concetti piuttosto astratti, sia invece faccende sì legate sicuramente non all'esteriorità, quindi in questo senso all'interiorità, ma con magari un aspetto più diretto, potremmo dire, meno astratto, meno metafisico, ecco. Beh, e iniziando questa trasmissione appunto di 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia, vi propongo immediatamente un autore che poteva stare anche dentro Futuri Rumori, visto che sta facendo cose interessanti, tra l'altro non da tantissimo tempo, Francesco Giannico, che da circa 5-6 anni sta facendo uscire cose molto interessanti, anche tra l'altro per la Boring Machine, che già conosciamo, ad esempio Be My Delay, etichetta che potremmo dire sviluppa quelle sperimentazioni post rock, ecco, o comunque dilatazioni che provengono anche da altri mondi più sperimentali, se vogliamo. Anche già il post rock di fatto portava le musiche con quel post, si tendeva appunto anche un oltre per molte formazioni, per altre in realtà insomma era più il rock che il post, però di fatto insomma Boring Machine in questo caso faccende che hanno riguardato Francesco Giannico, parzialmente, forse ecco più nel lato sperimentale, qua veramente l'interior design è qualcosa che più ci porta verso quel scrutamento interiore, anche psicologico se vogliamo, con accenti anche emotivi decisamente interessanti, così per anche rilanciare quello che sarà prossimamente Futuri Rumori, che appunto rinizierà 451 frammenti sonori proprio da queste parti, e Francesco Giannico, che non inseriamo appunto dentro Futuri Rumori ma dentro appunto questo interior design, disco decisamente intenso questo Litania. Ci andiamo a sentire un pezzo che ci informa su un'emotività ma ben calibrata, ben comunque predisposta anche in termini proprio di disegno generale. Francesco Giannico appunto, per partire con questo interior design di questa sera o di questo pomeriggio, giorno, insomma, un discorso di prima. e da quello che è un percorso assolutamente eccezionale come quello di Francesco Giannico, ad un altro momento e percorso appunto che abbiamo voluto inserire dentro Interior Design, ma che sicuramente si potrebbe inserire dentro le nuove elettroniche, futuri rumori, come accennavo prima, non soltanto appunto di 451 frammenti sonori, ma in generale, visto che sia Giannico che Pietro Riparbelli, che abbiamo ascoltato appunto in continuità, rappresentano due punte piuttosto interessanti per quanto riguarda due punte di diamante, per quanto riguarda elettroniche che si cibano tanto di ambient, hanno anche quel sapore e sapere anche, perché no, particolare legato al field recording, quindi anche all'ambientazione proprio più in generale, quindi anche quella esterna, poi per certi aspetti, anche se poi qua diciamo il disegno e la scrittura sonora ci riporta poi a modi anche riflessivi, meditativi se vogliamo, anche in alcuni aspetti magari più sottolineati dentro la litania, come già un po' dice titolo appunto di Francesco Giannico, e in Riparbelli Vacuum c'è appunto questo anche senso se vogliamo angoscioso appunto del vacuo, che però appunto diventa anche momento poi di creazione, di svuotamento, quasi una sorta di tabula rasa, quindi una ricerca anche di un suono che abbia appunto una propria origine ben definita, che ha sì dei rimandi, ma che ha anche una particolarità, appunto quella di Riparbelli, di rendersi comunque originale, soprattutto rispetto a un percorso che ha tante cose dentro, ma ben appunto disegnate, ben calibrate, come dicevo anche prima, per quanto riguarda Giannico. L'abbiamo appunto ascoltato Riparbelli con Vacuum, e per trovare una sorta di padre putativo che non è tale, è più una sorta di folle e anche scheggia impazzita di quello che fu il crowd rock, di quello che è stato il momento anche psichedelico del crowd rock, se lo ricordiamo in un primissimo periodo, quello di Michael Michael, anzi tedesco, Bunt. Essere un po' precisi, perché sennò poi si arrabbiano i tedeschi, è meglio non farli arrabbiare. E in questo caso appunto Medusa era una delle formazioni vicine insomma alle psichedelie e kraut di quegli anni, che hanno attraversato terra germanica e anche con momenti decisamente freak, ricordiamoci insomma che tra i principali protagonisti di quello che è definito Kraut non ci si può dimenticare l'Amondul, che sono stati anche Amondul 1. Beh, Medusa, questo progetto di Michael Bunt un po' prendeva le misure anche attraverso le cacofonie freakadeliche di Amondul. Poi dopo altri progetti come Nine Days Wonder, e poi soprattutto dischi veramente eccezionali, ma nel vero senso della parola, perché vanno fuori sia da quello che è l'aspetto cosmicheggiante che uno si potrebbe aspettare appunto da Michael Bunt, cioè uno che arriva in un secondo periodo quando il suono kraut cosmico stava diventando un suono anche molto sì, interiore, e quasi anche una forma non dico di New Age, però sicuramente ha influenzato anche questa, che proprio nasceva appunto nella seconda metà degli anni 70, con le prime cassette, quindi anche con una virginità ancora tutta sua, con tutta poi l'ingenuità che poi diventerà valore di cassa, insomma anche piuttosto interessante. Ecco, Michael Bunt E invece riprende in maniera eccezionale il verbo cosmico e quindi il viaggio allucinato, appunto perdendosi tra le varie galassie sonore. E poi a momenti, veramente qua c'è l'eccezionalità, che vanno a, di fatto, a creare una tecno inconsapevole. Anche questa poi è faccenda piuttosto particolare, se con Kraftwerk ad esempio si ha proprio la costruzione man machine, no? E quindi sì, ritmi sviluppati per creare appunto l'etnicità del futuro, un disegno quindi futuristico dentro Kraftwerk. Michael Bunt invece sperimenta sui ritmi anche in maniera naif, in alcuni momenti anche folli, e trova appunto anche momenti più visionari rispetto, se vogliamo, a Kraftwerk, che invece fanno del loro costruttivismo, seppur con elementi anche melodici importanti, pop, potremmo dire, la loro caratura. Invece Bunt si butta così dentro appunto le nuove ritmicità create nella terra appunto tedesca in quegli anni, e lo fa in maniera assolutamente originale, proprio perché anche staccato, in questo senso c'è l'artigianato di Bunt, che lo fa in questi giorni proprio di ristampe dei suoi lavori, rendersi personaggio che viene scoperto, per qualcuno riscoperto, anche con appunto questo immaginario che anticipa molto gli anni Ottanta, ma soprattutto quegli anni Ottanta immaginati in maniera diversa dalla vaporwave, dalla chill wave, dal suono anche accelerazionista, che appunto per certi versi si può portare come anche così filiazione di Michael Bunt, forse anche qua paradossale, accidentale, ma questa è una faccenda interessante, più che essere una faccenda appunto così da mera curiosità musicale. E Bunt però è anche appunto corriere cosmico della seconda generazione. Andiamo a prendere a metà tra questi momenti cosmicheggianti e queste ritmicità che si spostano verso un altrove e non ancora ben definito, molto ancora di lì a venire, e con appunto quella fantasia e fantasticheria sul futuro che connota comunque il lavoro molto particolare di Michael Bunt. abbiamo ascoltato quel matto genialoide di Michael Bundt. Fatevi un giro su internet e vedete un po' di materiale su Bundt. Mi viene da ridere perché personaggio sul serio, insomma, al di là di vari steccati e con anche un immaginario che appunto è molto vaporwave, con questi neon, con questo immaginario che può essere anche veramente molto anche cialtrone, forse in questo senso esce anche quel cialtrone però zappiano, se vogliamo, quindi giocare su questo anche volere appunto apparire volgare, volgarmente stiloso, ecco, che connota anche certi aspetti dell'intero lavoro, con momenti appunto di assoluta genialità, come il pezzo che abbiamo ascoltato da Electric City, ma poi tra l'altro avremo modo di tornare su Michael Bundt, proprio approfittando di queste ristampe e tra l'altro parlando di personaggio naif sopra le righe, ma già un personaggio molto serio del giro cosmico l'aveva fatto poco prima di lui. Lui ha musicato e finalmente tra l'altro viene anche pubblicato da pochi giorni. È un porno negli anni 70, come d'altronde aveva fatto il serissimo Klaus Schulze. Qui anche qua si capisce, e anche Schulze poi alla fine degli anni 70 e primi anni 80 farà cose insomma difficili da capire anche per chi l'aveva seguito per quasi 10 anni. Forse c'è quella appunto follia che dentro certo Kraut, certa cosmice c'è sempre stata, appunto, e con Michael Bundt diventa anche una sorta di immaginario appunto estremo, se vogliamo, appunto, che fuoriesce dallo stesso cosmicheggiamento, con appunto tutto quello che riguarda quindi ritmicità futuristiche, visioni e quant'altro, insomma, dentro quell'immaginario assolutamente esplosivo che era la Germania negli anni 70. E se appunto avremo modo di tornare su Michael Bundt, anche con riferimenti sia l'unione che abbiamo fatto con soprattutto con Riparbelli per quanto riguarda questa anche capacità appunto di rendere il viaggio interiore e qualcosa comunque di piuttosto anomalo, di piuttosto singolare, ecco. Sicuramente l'altro ponte che facciamo è legato alla Vapor, ma soprattutto a quello che è il suono accelerato, così definito da qualche tempo a questa parte, quello di Olli Erdon, anche lei artista multidisciplinare che lavora sui media, come tra l'altro anche Riparbelli. E lo stesso Bundt aveva varie curiosità e un suono che da qualche parte appunto doveva trovare le sue radici, magari appunto nascoste, magari non svelabili in quanto tali, ma rintracciabili però in questo senso, in quelle di un pezzo come quello che abbiamo sentito appunto da Electric City di Michael Bundt. Trovando l'Erdon e aspettando anche un nuovo lavoro dopo Platform, che è un disco decisamente importante per quanto discutibile, insomma, del 2015, con sonorità che sono state definite anche molto molto fredde, ma molto anche interessanti proprio in questo travalicare appunto il suono elettronico sia dance che appunto più cosmico, più ambientale, più dronico, e andando appunto a cercare altri movimenti proprio come il disco del 2012, passato un po' così sotterraneo, suo movimento che comunque stava avvenendo. Vedremo insomma se genererà insomma qualcosa di piuttosto importante, forse già con Platform l'ha fatto, ma sentiremo appunto le faccende legate a Olly Herdon, che adesso andiamo a trovare appunto dal suo primo disco, diciamo abbastanza ufficiale, perché di fatto insomma prima esisteva una cassetta che giracchiava Carr, magari se si riesce a trovare magari la ripescheremo anche questa. Olly Herdon appunto per continuare e magari appunto per disegnare nuovamente questi percorsi sia interiori che però appunto hanno questa capacità di smuovere, quindi anche di portarsi poi appunto all'esterno, di superare magari quelle pareti appunto prima utilizzando nel senso insomma più comune quello dell'interior design, quindi il guscio, no, di casa, e quindi andare fuori e quindi anche rendersi architettura più generale, ovviamente in questo caso architettura sonora. Olly Herdon dal suo Movement. e da quello che è un percorso decisamente interessante, molto, molto particolare, dal disegno, dall'interior design di Olli Erdon a quello altrettanto accelerazionista e altrettanto futuribile, con anche tutte le inquietudini che ci sono dentro, una sorta di melting pot definitivamente impazzito, quello di Fatima Al-Khadiri, nata in Senegal, cresciuta in Kuwait, poi trasferita in Dakar e poi da musicista di base a Brooklyn, quindi veramente una sorta di melting pot che però viene appunto svelato anche in una chiave non positiva, come appunto nacque il concetto. E artista che anch'essa lavora con i media con una certa dimestichezza e anche con una certa proprietà, nel senso che in questo senso è molto accelerazionista, vicino a Olli Erdon, e ha uno sviluppo anche piuttosto radicale di quello che la tecnologia, quindi non la tecnofobia che insomma sta tornando anche tanto di moda, ma lo svelamento della tecnologia anche appunto come veramente valore strumentale, quindi in questo senso tentativo di portare anche a un altro concetto, appunto il tecnologico, il dato tecnologico. E con Fatima Al-Khadiri concludiamo questo 451 frammenti sonori, più piuttosto accelerato, ecco, potremmo dire. E ci sentiamo mercoledì prossimo. Brut, il disco appunto di Fatima Al-Khadiri, e poi un piccolo omaggio al grande Leonard Cohen, non fatto direttamente da lui, ma da personaggi che non si sospetterebbe, insomma, amanti di Cohen, poi in realtà amanti e come, ovvero i Coil, che omaggiano Be Fire, favoloso tra l'altro. Io vi rimando appunto a mercoledì prossimo, Fatima Al-Khadiri con il suo Brut, Be Fire nella versione non di Cohen ma per omaggiarlo, fatta da Coil, e poi appunto faccende che si aprono dentro interiorità che poi forse diventeranno qualcosa di esteriore, in effetti poi il paradosso è tutto qua quando si esprime qualche cosa, ed è forte quell'espressione, appunto tende a fuoriuscire dalla stessa creazione, dalla stessa appunto tendenza a lavorare sull'interno, che stasera ha connotato 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia, che tra l'altro vi saluta e vi dice fate i bravi, ciao. Oh. who become accustomed, I believe, to pushing the envelope, to treating people poorly, and there's no consequence, there's no accountability, then you start to realize that, well, shoot, if I did it over here, I could do it over there. If you get involved in something, you understand as a police officer that by and large, you're going to be provided an attorney because you did this thing within the course and scope of your employment. If there's a settlement, the city, the state, the county, whatever, will pick up that tab. And if the department has some angst, they may suspend you for a day or two without pay or not. And so a lot of times what I see police departments circle the wagon, not because they're really interested in protecting that officer, but they're interested in protecting that entity. Okay.